Thank you. capitano errante tra mistero e verità, diviso tra un presente certo, innocente opacità. È un sogno di poesie, col porto di magie, che l'alba coglierà in eterno addio. Capitano fiero, giunto al bivio che sarà, la notte cala al suo sipario, ecco l'isola più in là. Non ho messo qui, poi accendimi, giurerò un attimo, per sempre sarà. Mr.